«Maestro, dove abiti?» chiesero Giovanni e Andrea nella valle del fiume Giordano. «Maestro» l'hanno chiamato, «dove abiti? Perché noi vogliamo stare con te, esserti di casa!» «Sì, quando voi sentite nell'animo pensieri buoni, una voglia santa, dite, dentro di me, chi è che può suggerirmi questo? Non la carne, non il sangue, non Satana, non il mondo, Dio in persona, e godetene, perché siete veramente la casa di Nazareth. Dio viene ad abitare in una povera casa, la più povera casa di Nazareth era quella della santa famiglia di Nazareth. Chi s'accontenta gode. E quando è che noi possiamo dire di accontentarci? Noi che abbiamo delle aspirazioni, delle voglie che sono smisurate, quando in tasca, nell'anima, avremo Dio. E parleremo con Lui, tratteremo con Lui, contatteremo Lui. Ah, provate, io vi ho stimolati a queste esperienze mistiche, la stiamo vivendo anche in questo momento, una bella esperienza mistica, come se intorno a noi il mondo non esistesse più. Siamo tra le braccia di Dio. Chi s'accontenta gode. Ma l'uomo di chi può e di che cosa può accontentarsi? Solo di Dio. Perché l'uomo è fatto su misura di Dio. Scusate il brutto paragone. Bisogna che noi infiliamo le scarpe di Dio. Perché il nostro piede è fatto su misura divina. Piede, intelligenza. Piede, la volontà. Due piedi, l'intelligenza e la libera volontà, sono fatti su misura divina. Quindi Lui solo ci può riempire. E noi, finché non ci riempiamo di Lui, siamo come persone che hanno scarpe non fatte per i loro piedi. Ci perdoni, Signore, se usiamo un paragone così ordinario, banale quasi, ma è così. Dio ci ha fatti su misura sua. E saremo pienamente contenti solo quando infileremo quelle scarpe. Mente e cuore vivranno secondo Dio, cammineranno nelle scarpe di Dio. Quanti passi non abbiamo fatto con le scarpe di Dio e siamo scivolati e abbiamo riportato delle ferite, delle piaghe, delle sconfitte morali, delle vergogne. Oh, ma infiliamo le scarpe di Dio. E chi s'accontenta, gode. Sì, e chi è che può accontentarvi voi? Voi, giovani o non giovani? Solo Dio. Chi s'accontenta di Dio, gode di Dio. Oh, che impressione in collegio da ragazzo. Quando la domenica, non tutte le domeniche, c'era non il film, il cinema, perché quello era un teatrino, come mezza di questa chiesa, un teatrino, e il palcoscenico, e alla domenica, non sempre, d'accordo, c'era una commedia, tre tempi, e una farsa da ridere. Ma io ricordo che impressione, si aspettava tanto che venisse la domenica, incominciavano già a mettere il titolo della commedia, eccetera, e poi ecco il primo atto, Patimani, poi ecco il secondo atto, interessante, ecco il terzo, bello, ma sta per finire. Allora i salesiani aggiungevano anche la farsa. Finito il terzo tempo, si batteva le mani meno fragorosamente. Allora mettiamoci anche un quarto d'ora, 20 minuti di farsa, e si rideva a squarciagola. E poi finito, quasi non si battevano più le mani, perché era finito. Le cose belle non dovrebbero mai finire. Tutto ha fine, meno che l'anima. Solo l'anima. In noi tutto ha fine, meno che in essa. L'anima è una scintilla, un raggio della divinità. Anche i pagani sanno che la divinità è eterna o non è divinità. Basta ragionare un po', riflettere un po'. Dio solo non invecchia, e l'anima nostra, in quanto creazione di Dio, diretta creazione di Dio, diretto intervento di Dio, diretta partecipazione degli attributi divini. Dio immortale, Dio tutto spirito, l'anima nostra vi assomiglia.